Un'altra radio. Un'altra musica. All'ormai consueto appuntamento con Altra Radio Roma blogspot.com e bentrovati dal vostro Mister Brontolo. I mondiali del Sudafrica, almeno per l'Italia, sono ormai finiti e posso finalmente parlarvi, senza essere fazioso, dell'Africa e della sua diversità musicale. Non so se siete d'accordo, ma essa rappresenta la madre della musica mondiale, lavorata con pazienza certosina e modificata da tecnologie all'avanguardia, la musica africana resiste e risulta sempre ben distinguibile. Il desiderio di dedicare un intero podcast alla suddetta musica è scaturito da un ancor prima desiderio di screditare tutti coloro che ritengono che da soli possono bastare, ritenendo che la biodiversità del nostro pianeta sia qualcosa vicino all'inutilità. E così, consapevolmente e inconsapevolmente, si spingono e ci spingono ad un'omologazione continua. Al contrario, io, Mister Brontolo, ritengo che la vera benzina ecologica del nostro pianeta sia proprio la diversità, ed è per questo che ho tentato di costruire questo podcast utilizzando una musica antica, esclusa ormai dal nostro contesto culturale, e che rischia così di essere dimenticata. Aduna bi al sam bi mana tunu nangunu ngin domi Africa ngin ti ñu xol ak ben be This is Dakar calling, l'Afrique est en ligne. This is Senegal calling, wake up, good morning. This is Dakar calling, Youssou est en ligne. This is Africa calling, lo Japon nanga kuba, mangi fi tei, mangi fi elu, bespune tei delu si, nanga kuka mabla kuka kote. Wake up, good morning. This is Dakar calling. You should enter me. This is Africa calling. Wake up, good morning. This is Dakar calling. Africa calling. This is Senegal calling. Aye wuli, dugu jara. Dakar wulendo. Farafina ben nga juru siraka Senegal wulila Youssouf ben nga juru siraka Dakar wulila Farafin ambeka wulila mbife farafina ka kɛ an sago ye farafina ka kɛ an ka bɛn an n'an ka sabati n'an ka kɔrɔta ye an ka jɛ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ fila fan ka wulila an bɛɛ ka jɛ an ka wuli Molto molto bene, questo era Youssou N'Dour. È nato a Dakar il 1 ottobre del 1959. È un cantatore e quindi anche percussionista senegalese. Lui ha sviluppato un genere di musica popolare senegalese noto come Mbalax, un misto tra tradizionali percussioni usate appunto nei canti e nelle preghiere con arrangiamenti afro-cubani. Questo brano è scaricato direttamente da Free Music Archive, anzi colgo l'occasione per ringraziarla, e questa è una raccolta di Intra Health International. Cliccate sul loro sito perché loro appunto si occupano per rafforzare appunto gli operatori sanitari dei sistemi che li supporta. Loro si occupano di salute. Salute non rivolta solo al continente africano, ma rivolto al mondo intero. Ripeto, fatevi una ricerca con Google, Intra Health International, se volete, intervenite come meglio ritenete opportuno. Bene, si continua con i Banana Clips, un EP scaricato sempre da Free Music Archive. Ho detto Clips perché finisce proprio con la Z, proprio come un'altra radio romance. qui a un'altra Radio Roma stiamo per parlare di danza, danza che proviene dalla Guinea, con gli Ankari. Questo è un ritmo di corteggiamento nel quale i giovani hanno occasione per esprimere il loro amore e la loro ammirazione reciproca. Le ragazze e i ragazzi ballano in coppia, l'uno di fronte all'altro. In questa circostanza gli elementi essenziali sono l'incrociarsi degli sguardi, i movimenti seduttivi ed il toccarsi reciprocamente la parte in prossimità del cuore. Viene spesso suonata assieme a Macro, che subentra dopo un tipico fischio o dopo una chiamata. A questo punto la danza si velocizza e le coppie danzano individualmente. Esiste sia una versione ternaria che binaria, suonata appunto da Ian Carr. Buon ascolto. Ed ora sempre qui a un'altra Radio Roma, blogspot.com, Salam con la area, sempre da Free Music Archive. Thank you. magengelare ode nyare dare e nango foi mi dare wilanam oda ya mi ewe Jabama, Jabata, Yawa. normal tal. La min senghor ya bata ya wari. Nigima alkali kunda Amadu jamba ya bata ya wari. Kundae kurbi fama yabata yaware Chimini gima Zakaria salam kunda yabata yaware Ulo Cambiamo genere. Come poteva mancare della musica afrobeat qui a Nartra Radio Roma? Ed in particolar modo andiamo ad utilizzare i Barcellona Afrobeat International. Fala, baby, cara, FIFA. Agora fala, baby, cara, FIFA. Cooper Moore nasce in Virginia nel 1946. Lui è un afroamericano e si occupa di jazz, ma le sue radici africane si sentono. Scaricate direttamente da un'altra Radio Roma, ecco per voi Cooper Moore. Da dove la musica nasce e dove la musica sta andando lo si può sintetizzare con questa traccia di Bacalao, tratto dall'album Antipop Consortium, sempre da Free Music Archive. Ascoltatela e ditemi se non sentite sotto delle sonorità africane. I come correct, I'm in effect, in full effect, forever living fresh, tight, let latex the lyrics. El Topo Loco, tainted holy water, vicious vocal, honey, love, marvel, my magnificent insurgent, Mr. Turn your lights off. The nail biter, writer, jerk face, face breaker. Scary movie when you wake up, movie when you wake up, movie when you wake up, movie when you wake up, a I'm a zombie without the makeup trap of expectations. But went from rumor to legend and adulation with my twist on the twist. Rap Vermin's greatest irritation word to me. Highly velocity attack, risk free. Alphabet threat, theoretical cadet. Rip the sun to disco ruin. Format the mouth, pace viewing. Casual slaughter and venom. Plot my error unwind. But you can try, but I spit in your eye. The land is fertile with your tears. With the gold points of this wish, bandage versus empty. Momentum, a mountain, a torment, terror, frenzy. He like 100 suns in 1,000 bronze. Just before we submit to eternity. Let's treat the prolonged days of bed to breath before I'm bending your knees in your last negotiations with God, begging for blood to pump to your heart. Cause once you depart, you recycle for spare parts. APCs, APCs, APCs, APCs, APCs, from the demise of these male MCs with ovaries, a reflection, the planets are aligned. It's our time, let's get 'em. Let's get 'em. Let's get 'em. For world order, no matter how erratic your pattern gets. Do you still feel me like a rubber grip? Densities, Faso, in nome della capitale. Questi nascono nella parte occidentale africana e invece di riciclare il rock e bei ritmi noti della musica funky, Burkina Electric cercano di arricchire il tessuto della musica dance elettronica utilizzando dei ritmi insoliti che raramente vengono ascoltati e sono poco conosciuti. Anche in gran parte dell'Africa sono poco conosciuti. Ciò include ritmi antichi, quali quelli del Sahel come Uraba, Mossi, i Popoli o Wenega, ma anche nuovi ritmi di loro creazione. La band, infatti, vi invita a scoprire che questi ritmi danno la forza alla musica della discoteca, house e drum and bass. Buon ascolto! Azar la kabe kae la kwa bene tando mkonton sno forem dani tando mkonton sno mkami foe la vo konta ton sno mkami foe la mami fo fo kwa inga mkami foe la mami fo fo la ranta ba inga mkami foe la mami fo fo ni son no inga Mokota ton fancy no go. We'll be right back. dunia urumbore dunia dunia urumbore dunia urumbore dunia. Diofar Katouré è nato nell'81 a Mali e precisamente a Newfunke. Lui è un chitarrista e cantante maliano ed è il figlio del noto Alifar Katouré. È stato acclamato dalla critica di tutto il mondo ed ha dimostrato nel suo energico live che egli è l'erede del talento Ali, anche se ha affermato il proprio stile. È stato l'artista di punta per la production Mobiba dalla data di uscita del suo album di debutto. E la traccia che ho scelto per voi, anch'essa è scaricata da Free Music Archive. E il suo titolo è Away, Warm Way. Bye, bye, bye, bye. you, you man find the church in you. You man watch it about you, you man watch it as a lacquer. You man watch it about you, you man down to the front of the boy. You man watch it about you, you're good, my guy, father. Il prossimo artista con la musica africana credo che non c'entri proprio nulla, anzi ne sono certo, ma le sue percussioni ostinate e continue, inserite in un contesto industriale, me le ricordano molto. L'artista in questione è Dan Hendrix con la sua Mollusk. Lui viene dall'Olanda, lo trovate sia su Google che su MySpace e lo scaricate liberamente da Free Music Archive. E il vostro Mr. Brontolo ve lo consiglia. Oggi Mr. Brontolo non utilizzerà un jingle per chiudere il suo podcast, bensì una traccia di Carl Blau, augurandosi in tal modo di essersi riconciliato con il mondo sentendosi finalmente parte di esso. Thank you. street. Her rosy fingers briefly opening the orange curtains of her hair. Swallowed. Who is there?